Natalia, beh, no, mi sto, non sono rientrato perché stavamo parlando, dai, sono distratto in questi giorni, poi fra un po' rimetteremo un po' a posto la casa, un po' di repulisti, un po' di roba da buttare, non subito, fra un po', dai, fra un po' di tempo. E beh, Natalino, non c'è nessun altro? No, ma io mi sono appena alzato, perché mi sento male, ho vinto il colpo della strega, stamattina sono andato lì. Oh, strano. Cioè, strano no, capita, capita. E Claudio, si è dato? No, non l'ho sentito ancora. Sei un bel forte di segnale, mi Natalino. Un bel forte. Invece sei già 9.25, figurati con l'antenna sopra. Di più, anche di più. Bene, io sto per andare da Lidl a fare una mini spesuccia, mini. E poi ci sentiamo dopo. E io ti già sono in piedi. Claudio! Niente, poi dici a me che dormo, io sono tutta la sera sveglio, tutta la sera in attività. No? Ma è che cosa fai tutto il tempo? Quello andrà a casa? No, dedicandomi a cose mie, stavo facendo tutto il preventivo di roba da comprare, su internet. Grazie, non bastano mai i soldi, ce ne vorrebbero 1.000 di euro per comprare tutto quello che mi piacerebbe avere. Claudio, esci dall'oltretomba. E vabbè, dai, non conviene attaccarne, baracchino. In macchina, cosa ho dato a fare? Tanto non c'è nessuno. E tu mi arriverai basso in macchina. Fino alle 10 arrivo. Beh, dai, io esco, dai, così alle 6 qua escono un po' di macchine e cerco parcheggio, dai. Vado a fare sta spesuccia. Ciao, a dopo, ciao. Ciao. Dimmi, va. Ti ascolti, sono in macchina con un'antenna. Sì, che lo conosco, quello che c'ha l'antenna, già beh, già ci siamo capiti. Sto provando, mentre vado là, ok, sto per partire, ecco, tra poco. Arrivi bene. Ecco, adesso siamo dentro la macchina. Com'è la distanza? Questo è il bello squillante. Distanza 5 cm da parte, guarda. Così distanza 10 cm da parte. Così sto parlando invece vicino, com'è migliore? Vicino, però anche quando lo allontani è buona la modulazione della squillante, capito? Se ti ricordi uguale, c'era avuto Pomponio nell'82. Anche io l'ho avuto. Oh, anche tu, non lo sapevo, no? È bello questo mio. Pensa che sia funzionato dall'86 che l'abbiamo comprato, funziona sempre. Incredibile, guarda. E a me quello che avevo in campagna della macchina mi si è crepato, capito? Il processore. E c'avevo 25 watt, 400 canali, quello che c'avevo in macchina prima, quello omologato, e mi si è cribbato. Dimmi tu, e quello sta ancora funzionando. Claudio, esci dall'oltretomba. Sarà tra cui, sarà ancora con il cazzo. Ieri mi ha fatto una bella modulata con Gianni, però tu non c'eri. E a che ora ti sei svegliato ieri? Ho svegliato, io tutto il giorno facendo roba, tutto il giorno facendo roba. Mi ha dato un messaggio, non mi ricordo chi era, ma ero la guida io. Ah, e forse Claudio. Eravamo preoccupati pure, ma non è che si sente male quello lì, non abbiamo pensato. Quantità impressionante, prenditi i carburativi, Marco. A me li avevano fatto bene, però poi l'ho ripreso. Oh, il distributore di Piazza Forlino ormai è chiuso, fuori servizio da secoli, non c'è manco più l'elettricità, secondo me lo levano. Se non lo stanno usando. Ma a quale livello devi andare tu, a quello che c'è vicino a Decathlon? No, dietro lo stesso. stadio. Ah, quello di sud, guarda. Eia, proprio quello. Claudio esci da Orzolla. E quando si sveglia vedrà che c'è il solo, perché bisogna fregarlo. Sì, sono angolo via degli astronauti, mi ascolti sempre. Via Oriani, angolo via degli astronauti, no, via Gramsci, sto dicendo. Sempre ti ascolto, benissimo, forte e chiasso. Hai visto questa antennina di Chichia che è del Maxcom? Quello funziona bene, funziona. Avrei voluto che funzionasse quello che ho io, quello piccolino da Fulginio. Io ce l'ho più fatto in macchina e non l'ho potuto provare ancora, perché non c'è nessuno mai su questa frequenza. Anche i camionisti sono spariti, prima era sempre bene, ma va lunga. Speriamo di no, che si ripopoli. Se ce ne andiamo noi a chiudere sì questa frequenza, proprio no, si sentirà più nulla. E su cui l'antenna ce la attacchiamo a culo lì. Infatti, che se quella che devo prendere io è bella lunga. Bombonio, ci sei? Bombonio, ci sei? Eia, adesso ti bacino. Ehi, Natali, ti saluto che ci ando dalla macchina, ciao. Ehi, già sono qui in quel Rix, ciao. Poi sono fatta la mia antenna, Natali. Natali. Ehi, buonasera. Beh, a Giovinini si telefonava lunedì di l'arrivi di un cavo, a vice Marco. Ma di tu pure si voglio rinunciare. No, rinunciare, ormai fa veramente pazienza. Ragazza, va bene così lo stesso. Ma ora io ho un certo rientro di venerdì, se non posso poco fa. Faccio un brivido di freddo. Mi è venuto un colpo della strega, cazzo, so con che benda, duro, alla china, cazzo di aro. Stamattina da quando me ne sono alzato, dove se mi sono mosso in un modo strano, facci. Via, purtroppo non siamo più ragazzi, è un casino. Stanco, stanco, stanco, stanco, di proprio una roba allucinante. Sì, quanto abbiamo fatto oggi, mamma mia, mamma mia. Non è fatto nessuno. È entrato Marcolino, è entrato, era impegnato. Adesso è andato alla Lidl a fare delle compere, non so. Però ieri dice che era tutto il giorno facendo. Tu a ci credi, a me mi imbarghi a drummiti. Tutto il giorno facendo. Poi deve essere che stava facendo il lavoro in casa, non lo so. Non disco. Oh signor, andiamo. Aspetta 5 minuti, arrivo subito, devo sistemare queste cose che arrivo. Un'altra ora, adesso sono le 4, sono 10. Adesso torno a casa, mi sa che convinto di avere 50 e non sono portato 26. E allora? Adesso non posso convincere da 20. Ma non farla andare tanto a riserva la macchina, mi immagino. Tutti sporca il serbatoio, a me mi è costato 250 euro di pompa della benzina, perché la mia ce l'ha elettrica. E, cazzo, 250 euro mi è costato, giura posso dare una risorsa. Infatti tanti anni che questo funziona bene, ma non ho mai usato problemi. Sì, a questo momento, devo stare attento a che ci siano più urbani. Infatti. Ma ci dovrebbe essere il microfono per quella radio, lui la può tenere appoggiata nel sedile. No, questo non ha preso in costruzione. E quindi non ha preso per poter attaccare il microfono, così. Ho usato nudo e crudo nel cappello. Oh, ha una bella radio. Peccato che lo devi tenere in mano perché è un portatile. Io la conosco, ce l'avevo anch'io, la... c'è la portante rossa che è fin davanti, così è. Figurati se non la conosco. C'è un dolore alla schiena che mi sta ammazzando, mi ha fatto passare il volto da mia moglie. Però non mi ha fatto l'unità. No, ci vuole una pressione di... Vuole un'iniezione dell'asino della crocca. Domani vado, scusa, devo andare a sparare. Andrò dall'asino e mi faccio dare una bella passata. Così una cassa me ne posso mangiare di fichi di pie. E sai cos'è, Natalia? Quelle che sono veramente efficaci sono le iniezioni, capito? Le iniezioni intramuscolo, quelle sono più efficaci. Però chi me la fa? Tocca andare alla mia zia a farmi fare le iniezioni. Adesso glielo dico a ordinarmele, se non mi passa a mia moglie la mano, e se poi andare alla zia a farmela fare. Mia moglie non mi va a fare, non avrà più da fare la volta. Una volta mi sono bloccato quando abitavo in campagna, per una settimana porto il mio tiro, mi sono bloccato, mi sono iniziato. Oggi come mi sono alzato, tac, mi è venuto questo volo, non ce l'ho fatta neanche a tirare il divano. La vicciaia Carronia, buonasera a tutti. Vecchio sei giù. Buonasera, buonasera. Buonasera, lei che c'è da capignare in macchina col portatile della Nizza, però funziona bene. E che portatile c'ha? Il portabile è quello del quello di emergenza, questo l'hai anche tu, quello lì, quello con quella valigetta, funziona benissimo, canta roba di radio là. Ah sì, lo so, sì, ho capito, io ho quello Intec lo stesso fa per bene, ce l'ho per un po' di tempo, adesso bisogna che lo riattacco, qualche giorno mi metto lo attacco e vediamo un po' come esce. Sì, lo so, come si chiamava, ragazzi? Quello col tasto rosso, non mi viene il nome, ne ho capito quale, va. Ehi Gianni, mi senti? Ehi, bene pure. Caspita, è una bella radio. Ehi, sono sotto casa, sotto parcheggio per puro culo alla prima, sì, sto usando il Maxphone 7 con la sua antenna veicolare, guarda, così distanza 10 cm, 1-2-3, così vicino, 1-2-3, è bello mio. E nonostante siano passati ben dall'86, 30 anni, 31 anni sarebbero quasi, funziona sempre bene, cioè si accende, non ha difetti, guarda, è un bigiuccia, peccato che l'antenna rende poco. Ma questa è l'antenna magnetica che c'ha lui? Sì, è la sua antenna magnetica, quella di alluminio lunga 80 cm. Sì, Santiago qua, Santiago Radio 5. L'antenna sua, io praticamente parte quello mio è penalizzato perché si può usare solo con l'antenna magnetica, non si può mettere, invece quello si poteva attaccare anche all'apparato se non erro, si svittava dal magnete e si utilizzava sull'apparato, confermi? Sì, sì. Aspetta un attimino che la marcia è già messa, okay. Sì, qua la puoi svitare dalla base magnetica, la puoi applicare in punta all'apparato sulla sua vite e lo puoi usare come portatile, capito? E c'è quella custodia in finta pelle che poi di cartone che ti permette di contenere le batterie, è molto bella come stipica, c'ha la cinghia. Ho detto a mamma me lo vendo, dice guai a te, quello è mio, non voglio venderlo, guai se sa che l'ho venduto, io invece non lo volevo vendere. No, vendere, che quello non lo trovi più, ma è un pezzo raro, appartiene a 30 anni fa, è come qualcosa di antico. E io ce l'ho lo stesso, nuovo, e si sta solo cancellando il numero di matricolazione perché io ce l'ho anche in concessione quello lì, oltre a quello là, non c'è anche questo portatile in concessione. E praticamente la omologazione è attaccata adesiva, capito? Eia, no, qua è incisa. Eia, questo io l'ho visto a Pomponio nell'84-85 e mi era piaciuto a tal punto che l'abbiamo preso con mamma la Cenerata, cioè l'abbiamo, là, 200 euro tondi l'aveva pagato. Ed era fermo da un bel, l'avevo usato anni fa e poi l'avevo lasciato, però mi sa che me lo sfrutto di più già. Pensa che ho le batterie ricaricabili, ne ho già 10 o 12, qua ne mette 10, le carico bene, le metto nella custodia e lo posso usare anche per chiamare da portatile, per dire. So che manco per chi mi vede già, sembra un apparecchio militare con la custodia. È un bel grande, quello lì che c'ha, è largo, rimane largo, invece il mio rimane stretto, a quella prologazione lì, che rimane più stretto di quello. Beh, vabbè, comunque vanno molto bene, hanno una capsula molto buona, si sente benissimo. Eia, com'è squillante la modulazione già? Sì, bella presente. Chissà che attacco anche il mio a vedere come esce. Eia, attaccalo più tardi, perché adesso io stacco tutto, devo portare la spesa a casa, ok? Ci sentiamo più tardi da casa. Ciao. Ciao a tutti, ciao Natalia, ciao Claudio. Ciao Mario. Avanti Claudio, buonasera. Claudio non ci ti sto dando una sistemata che è appena tornato al lavoro per il lavoro. No, io ci sono tornato alle 3:30. Allora, più burretta, più vatta e via. Poi mi sono coricato e con un sasso mi sono drumito. E io pure mi sono riposato un po', ma il sudato non l'ha fatto grumia, che si vuole sempre vicino a me e a me mi fa male la schiena perché mi è venuto un colpo dalla strega stamattina e sono grumato. E non ti ha messo nulla, non c'è qualche cosa da mettere? Una volta mi ho messo un promazzo, mi ha fatto passare dalla 50. Media elettrica, fa bene. Io invece l'altro giorno mi sono spazzato il dito, ero a piedi nudi, mi stavo lavorando, ho squillato il telefono, stavo correndo, mi sono spazzato il dito di qua, il dito del piede, io neanche lo voglio. E domani mi sono andato, c'è più tutto il piede viola. Ho telefonato poco fa la IEL, ma ho detto anche se volevo rinunciare, perché il capo gli arriva lunedì, e gli arriva dal letto, questo cazzo del caso, e non gli è arrivato ancora. Visto gli arriva lunedì, allora quindi mercoledì sarà tutto qua, ma adesso era soffermato il tutto, e si è parlato proprio con quello che ho fatto lui. Perché sta ridendo? No, perché Natalina era convinto che oggi sarebbe arrivato tutto, invece hanno ritardato un bel pezzo, c'è ieri qua lunedì. Vabbè dai, chiudo in modo esecutivo, a dopo, ciao, riprendi Antalì. Un fucile a pompa gli ti rompo la porta, te la butto giù. Antalì è andato a me, mi ha armato fino ai denti, Gianni. Sì, già lo so, già lo so. E va bene, Natale, dai, un po' di pazienza, tanto lunedì aveva subito problemi. Cosa rinunciava mai, hai fatto? Oramai è venuto di nata, ma l'hanno pigliato dalla gatta. Vabbè, quello sì, quello è la prima cosa che fa. Ratapigliarsi i soldi. Allora, con ratapigliare gli butto giù la porta, adesso. Perché te ne posso camminarsi, lui è andato. Così di dolore c'hai alla schiena, ancora per favore. Io non ho passato niente, già, nulla. Allora mi corra perché mia moglie è uscita, me la faccio tornare a passare. C'era lì da ricato, ma mi fa male. Un dolore stamattina, ma chi non ti dico come me ne sono alzato. Come me l'ha fatto una volta? Sono sempre andato al lavoro e ho cominciato a lavorare e stavo prendendo, ho preso il trasporto per prendere la pedana di là. Con un pompato mi sono bloccato, non riuscivo più a muovermi, lì. Sono rimasto secco, non riuscivo a muovermi in casa con la posizione e mi sono dovuto sedere, ma il dolore era lancinante proprio perché non poter muovermi. E poi ci avevamo una comanda lì alla bocca e cosa, siccome veniamo anche a fare una cirici, no? Trovavo questa comanda, me l'hanno passata e un po' mi è arrabbiato, ma mi è durato giorni e giorni. Sto dicendo, una volta mi è successo quando abitavo in campagna ancora, che me ne sono alzato e ho letto, bloccato. Adesso sono stato una settimana a porto le iniezioni di quelle le schiaffe, cioè, macro, i bati, per andare da mia zia all'Odissea per fare l'iniezione, perché non me ne potevo salire da me la male, che c'era quel cricchetto nella macchina, no? Che mi sale il sedile. Scatta, con quello sono riuscito a scendere dalla macchina e rinchiudato a un gancio. Ci vorrebbero portare dei muscoli insieme, che non è che fa passare, però le devi fare un bel po'. E invece io soffro un po', sai che cosa? Di crampi, boia, e non mi lasci da un crampo dopo pranzo. Stavo dormendo, dico che ho avuto un crampo dietro la cuscia, ma dolore, che non si più a muovere. Un'altra cosa è il bambino. Poi devi puntare subito il piede in terra e ti baci. Cioè io sono proprio un bagno, seduto qua, cioè io non lo so, un invalido bagno. Che non ne ho, se l'avrei fatta io, l'iniezione, quello non è un problema. Non ne ho di voltare le muscoli, le ho finite perché ne ho fatto una scatola intera, l'ho buttato lui. E infatti adesso domani me la faccio ordinare. Se non lo bacia, già sta. Adesso mi faccio passare di volta da mia moglie quando torno. Se non mi basta, ci faccio bigliare di un coso che non ne posso bigliare, di sciocchi. Io ho preso una bustina di quello, non ne posso pigliare, la dottoressa me l'aveva proibito, perché io l'ho pigliato per cacciare, non ne sapevo, quando era duro me lo pigliavo, invece non ne posso pigliare. Ma non è approfittata perché se ti fa male al cuore quello di cui è molto forte e minuti, non credere che sia una cosa, è a livello di droga, dicono che è proprio come una droga. E un cavolo mi ha fatto passare lì, e l'hanno fatto passare la fermata di Volcare, e so che ancora tutti a duro riguarda per tutti i fatti. Oggi mi ha ammazzato perché volta che ti fa passare nel momento e poi ti ritorna, è un antidolorifico, ma ti fa l'effetto nel momento per un po' e poi ti torna via, invece con l'iniezione prende a fondo e hai roba di muscolatura, però sicuramente qualche incassamento che fa qualche cosa del genere. Poi a freddo magari c'è qualche movimento, a freddo ti frega, come fatto come? C'è da andare a pago col traspasso di questo secolo. E non mi potrebbe entrare neanche i pantaloni, non mi potrebbe entrare. Una guerra, ma punendo i pantaloni a lasciarmi le scarpe per andare a fare l'inizio. Io bisogno una barba, un duro tremendo, va. E adesso lo stesso, ma stamattina mi ha fregato. Già lo so perché. Lo so perché l'ho provato, non so cosa vuol dire. E non uccido io, non esci il mato a pigiare a lasciarmi le scarpe, niente, lo ci va a fare il a furia di prendere umidità e cose tutto insieme le ossa nel deserto. Io lo credo, ui. Se sta portato la capigliana, dice che gli arrivo è così difficile. Perché mi dovevi andare a pronto soccorso, ti facevo un'iniezione, ti passava il soffitto, ti facevi accompagnare e ti facevano un'iniezione per le ore. Io al pronto soccorso di sì, poi io già mi accompagnava. A tu che mi mancava fare, a tutto qua un gatto. Natalia, una guardia medica, stasera si vede che è così, fammi una telefonata, ti accompagni dalla guardia medica. E la mia dottoressa tra l'altro, che fa la guardia medica. Ma non ce n'è più la quella che va a vicino? No, no, già è un anno, ho preso quella che c'ha mia moglie, così è vicino, ci va lì, non sono più andato io dal dottore. Già andavo dal grande di medicina, tante sono stati studiati. È brava, cos'è gioco? È un'amica di mia moglie, si conoscono da piccolina. Giovanna si chiama. Ma c'è la moglie. La moglie di Massimo Barata. Ma non lo so, adesso Carboni si chiama lei, Giovanna Carboni. E c'ha il corso al corso, l'ambulatorio al corso, però fa anche la guardia medica lì. Ah, ecco. Ma non lo so come si chiama il cognome, però ho un amico io che ha la moglie che è dottoressa, si chiama Giovanna, però può darsi che sia un'altra. Andava e comunque, no, anche io sono un po' così con questa dottoressa perché ogni volta deve fare e attivamente quando andavo da stessa ti telefonavo a vedere se ti diceva che cosa a chi lo so che era un casino chi, mamma mia roba di file perché me molto lei diciamo che fa lavoro a poco proprio ti trattiene molto parlando facendo quindi se il tempo passa capito la gente si farà intendere. Una volta io non avevo nessuna colpa, ho cominciato a guardare, a fare tutte le malattie che avevo avuto, eccetera, eccetera. Ha avuto per il piede e io non avevo nessuna colpa. Tanto anche se sicuramente si stava scocciando. Quando sono uscito hanno fatto un sussurro di sollievo. Ti trattene, ti deriva che visita, ti trattene, chissà, è scrupoloso, già lo so. Però me ne sono andato proprio perché era lontana e cosa, poi io mi ero trasferito qua e lui, infatti già ci va mia moglie a ordinarmi le cose, le medicine, ma vedo non vado più poi su baby. No, io c'ho la comunità, guardo la finestra si vede, se non vedete qui del faro, capito? È una comunità per me. E visto che ce l'hai sotto casa, è quello. E fa, quello che ricordo, che ce l'hai sotto casa, non è che devi fare molta strada, capito? Fa, la mia è al corso lo stesso, e dove voglio andare ci vado e vicino. Mi ha fatto pagare un certificato medico, non mi ha messo una cosa ira, 75 euro che mi ha fatto pagare. E la me la levo al dito, la dottoressa non me l'ha fatto pagare, ma qui su di lupo ce l'hai, ma mi ha fatto pagare. Chi è che ti ha l'ha fatto pagare, l'altra dottoressa, questa che c'ho io. No, quella non me l'ha fatto pagare, questa che c'ho io adesso, 65 euro, me l'ha fatto pagare. Fatta amica. E io non ho pagato 150 euro per farmi la relazione, per fare la visita per l'invalidità, no, per l'aggravamento. 150 euro per fare il furto. Adesso manda per gli invalidi civili o tutto quanto, forse è proprio di 65 euro, me l'ha pigliato qualche certificato che gli ho mandato. Da lui non ha giocato le visite specialistiche perché è meglio che sia fatto da uno specialista le visite, a vederla e se me l'ha negata. Cosa ti ha fatto? La pensione di invalidità? Allora, la dottoressa che ci avevamo, che ci avevo, la tua mi diceva a non farne neanche che non me ne davano. Ti sarò a stessi, mi sono intestardito e da e da prima la luce è andata. Sono andato e ha giocato tutto la lingua di civiltà, ha buttato tutti i certificati, ma li chiamate a visita, lì la sera come ti dici io, ma come ti dici a niente. Ma la visita l'avrei fatta all'Ips oppure hai fatto quella ricetta? Una l'ho fatta al ricetto, quando me l'hanno data, poi l'ho fatto la revisione all'Ips. Allora io ho fatto praticamente quella all'Ips per l'assegno di invalidità, di aggravamento, e poi devo fare quella al ricetto per la pensione, perché io non sono più in grado di lavorare con questo piede così, Natalia non ce la faccio più, a parte il dolore, tutto gatto, tutto l'insieme, paresi ostetrica e via dicendo, non è che stia molto bene, quindi ho fatto tutti e due, solo che ho fatto la visita, non mi ha ancora ricevuto la risposta, già un mese che l'ho fatta. Arrivi. Anche se mi ha detto che la pensione si ramiglia in cucù un travaglio, che tu non puoi travagliare in circondizione già. Sì, sono rimasto di accusa, noia. Solo che la pensione non è che sia grossa, è una pensione. Mi ha detto che tra assegno e pensione arrivo a 1200 euro. Che su di me, che tanti travaglia. Perché tu per le condizioni, esatto, non dispedi così, ma puoi andare, poi c'hai il diabete, c'hai un sacco di cose che non vanno bene per lavorare. E diabete anche aggravato. Prima quando ho fatto la prima volta prendevo solo le due pastiglie e basta, adesso faccio quattro spine, non è che c'è un buffonato. Solo che non è che la danno così, magari la danno a gente che non ne ha bisogno, a gente che ne ha bisogno. Mi ha detto il dottore, quello diabetologo, mi ha detto purtroppo siamo in Italia, chi ne ha bisogno non ne prende, la danno a chi non ne ha bisogno, chi fa si va, la prendo, dice tutti invece che ne ha bisogno, come lì non gliela danno. Infatti tu non hai bisogno di aprire, se tu devi dare la validità al 100% c'è una data di diabete che c'hai tu, cosa se non dice? Tu devi pigliare tutto, devi pigliare, ma cosa non sei in condizione di poter andare a lavorare, anche se sei giovane, perché è così, no, tu è un travaglio bizzarro, tu sei stato accusato di ragazzeria, ma tu non sei accusato di ragazzeria, lì sul discorso già. Non è un lavoro che puoi fare in quelle condizioni. Io me ne rendo conto perché lo so. Puoi stare in piedi, capito? Lo mi subito in discesso, me lo sto medicando io. Con la colitifina plus. Mi sto mettendo la benda, mi sto mettendo una specie di gomma piuma per non avere il contatto con diretto. Con la gomma piuma in mezzo alle gambe, con un bel bottone di gambe, di mezzo, in modo che faccia spessore, e poi li faccio rimettere il nastro. Così sto camminando meglio, capito? Infatti mi dico, ma poi tu sei? No, poi tutto no, ancora, ci passa lo schifo. Speriamo che questa volta sia la volta buona. non c'è giustizia a questo mondo. Sempre con quella parapolisi? No, no, questo è il 3009. Uia. Sto anche mangiando, quindi magari non posso prestarvi attenzione. Se vuoi dopo, tu metti il tuo e io metto il mio e li proviamo entrambi, ok? Datemi il tempo di finire di mangiare, se ci ho fatto anche brutta figura. Pensa che io con 20 euro ero convinto di fare benzina e fare una spesuccia. E ho fatto l'errore di continuare a mettere roba nel carrello, ho messo 27 euro, io ero con 20 euro appresso. Sono convinto di averne 50, 20 euro. E ho dovuto levare roba, ho dovuto levare roba, altro che... manco per la figura che ho fatto. Insomma, 21 euro, ho arrivato anche l'euro del carrello. Era bella, tanto che succede. Io bene o male mi regolo, dai. Guardo, questo costa tanto, quest'altro costa tanto. Bene o male mi faccio una cosa forfettaria, un conto forfettario all'ingrosso, però sempre in più che in meno, capito? E non mi dici, perché a volte voglio comprare con la carta, quindi no, dopo il prossimo mese mi prendono i soldi, allora compro con i soldi che ho e poi... Guarda, sono caduto nel tranello in cui cade mamma, no? Che certe volte porta i soldi e poi non sono sufficienti. E gli ho detto tante volte, porta almeno il doppio di quello che prevedi di spendere. Almeno il doppio, se non di più. E io sono cascato nella stessa trappola. Poi tanto sono poche cosettine, cosa vuoi che sia. Cosa vuoi che sia. Per esempio l'amaro era già 5 euro, la frutta anche costava un po' cara, banane non ne avevano, pensa, e sono quelle che costano meno. Vabbè dai, non succederà più. Ehi, basta andare alla cucca, la banana te la lava l'asino. Ah! Eia, ma bella banana mi. E per te vuole quella di quello lì? Vuole. Guarda, io ho una isola, sto comprando delle arance che non sono grandissime, sono piccoline, a 75 centesimi il chilo, no, e sono dolcissime, sono buonissime quelle arance. Infatti stasera dovrei andare perché le ho finite, però la Puglia non è che me lo permette molto, non è già 6 arance. Perché mi sono lavato, mi ho medicato il piede, adesso sono... mi sto rilassando, va. Oh Marco, ci vieni che domani mi puzzi perché non mi posso neanche muovere, che devo andare a un posto. Vediamo. Vediamo se riesco a cambiare. Vabbè, che si è aperto il distributore. Vediamo, vediamo. È aperto, scendi e andiamo alla macchina via. Andiamo lì alla Crucca, mi faccio una bella passata, almeno mi passa questo ore qui ed è tutto fatto. Ah, per quello. E allora andiamo tutte e due e ci facciamo dare una bella passata tutte e due, capito? La Crucca aveva pure un capo da tiro, e non ci sapeva che mi paga. Venite qua tutti e due, c'è Filippo il calore. Ah, no. Ciao, qua. Allora, qui, a Rattabrignale, vai a Taglio, a Natalino, che è più brucio, mi do qua a Filippo. E a Rattabrignale mi pare che c'è una bacia trombata. No, ma che? Mi piaci. Vieni qua e ti sistema lui. Vieni, vieni. Filippo. Anche a Natalino, mi piace, mi piace. Sono tutte e due che l'attizzano forte. Venite qua che vi fanno i massaggi. Ciao Claudio, rientrato. Sto mangiando male e in fretta. Devo rilassarmi e non parlare al baracchino soprattutto. E beh, tutto è fatto. Ma voi ci sei tornato tardi da lavoro. Io non ho più fatto le 6. Le 6 di stamattina, non vado a 7 più tardi. Ho staccato l'una e ho preso le 2. Non ce l'ho fatta staccare a mezzo giorno. Capito? Martedì e venerdì io ho un sacco di cose da fare. Domani sono a casa. perché sei entrato così in ritardo oggi. C'era Antalino prima, quando sono uscito col Maxcom, c'era solo lui. Poi dopo la spesa è entrato Gianni, quando stavo tornando. Ma come ti ci metto nel coglionito? Ti ci ho buttato con lo fondo di macchina, quindi posso andare a bere una sciacquata, sistemarmi la camicia del cane. E adesso sono seduto qua, non te lo vedrete. E poi dovresti a portare un gare, non finisce più. Te l'ho detto che devi schiattare. E quindi quello che sto schiattando. Cosa bisogna fare per 2000 euro al mese? Comunque tutti hanno detto che esce bene quel Maxcom. Ha una bella modulazione, me lo ricordo. Da Pomponio, guarda, un bijou quell'apparato. Ma sentito mamma dal baracchino, mica me lo volevo prendere. Ha detto no, non toccasi. Io la prossima vez mi sentirete ancora di meno. Sentirete ancora di meno. Sono un maggio per i villaggi, quindi mi trattengo un po' di più. Da maggio a settembre sarà un po' più assente, ma già è lo stesso, troppo più tardi di questa ora, sicuramente. E quindi già, ok, sì, ma io ho buono, si capisce, ma mi ha fatto levare il diabete, come te. Ok, è dipendente regionale, va bene, ma 30. Mi sembra che abbia di servizio 37 anni. A 37 anni di servizio, al diabete, ha avuto un incidente, ok, praticamente l'hanno anche operato dietro il collo, quindi c'ha leggermente il collo un pochino storto, ma posto, però è sempre a dolore, no? Infatti lui prima faceva più o meno lavoro che faccio io, adesso invece in ufficio all'ASI, a Corte Santa Maria, capito? Però Gianni, è già 2 anni mi ha fatto lo che prende la pensione e lo stipendio. Attento, la pensione più lo stipendio. Non è caduto, sì. Sì, non è caduto la stessa. Anche lui ha fatto l'aggiornamento, per il diabete, che mi fida davanti, sì. Anche lui prende l'aggiornamento per il diabete, ha fatto l'aggiornamento per il diabete, quindi le hanno dato la pensione, quella, più un'altra ne hanno aggiunto per invalidità, capito? Sta ancora lavorando, sino ad arrivare alla pensione. La pensione di lavoro, quindi la pensione col massimo. Poi c'è anche già un'altra pensione retributiva che è anche abbastanza buona. È anche abbastanza buona. Siamo 480 euro che prende più, 1.600 in piedi, però, quindi non capisco perché la gente non l'abbiano. Non so. E non mi ha dato ancora la risposta. Come sta arrivando? Sono col portatile Intec, quello SOS, come arriva? Cambio. Posso dire che a parte la tua modulazione oramai mitica, questa è molto più chiara, più bella, come quella di Gianni, di Marco. Io sono belli apparecchi, questo qui ce l'ho fermo un paio d'anni, ogni tanto lo accendo per vedere se funziona, perché sta fermo un bel di tempo, poi c'era la polvere sulla scatola ancora, e vanno bene, perché io l'ho provato anche in macchina, quando c'avevo la Panda, lo mettevo con suo antenino, arrivavo da portatore da Sassari, fate il conto, con l'antenino su. Sì, con l'antenino corto, piccolino nero, sì. Quella radio segnale è tuo, va bene, ottima, attacca il tuo Marco. Ma passi, lo portate, non ti credo. Perché? Sì, allora. Un attimino, adesso ha attaccato l'antenna del tetto, non è quella sua. Sì, vabbè, ma segnale è tuo, che stai dicendo tutto sgangherato, chi è? Eugenio, come sgangherato? Eugenio, continui a toccare quel microfono. Cioè, pone nello scotch il microfono, sennò lo blocchi. Se è troppo alto, come ti ha detto ieri Massimiliano, contribuì tra il 3 e il 4, tutti e due la rotellina, invece tra il 3 e il 4. Sentite che avete già, tra il 3 e il 4, ma non lo devi toccare, perché se lo tocchi esci male. Non si comprende nulla, esci tutto masticchiato. Così va meglio. Ecco la rotellina. Prova a vedere. Prova a vedere 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso è un bel forte, appena abbassa il volume. È un bel forte, però è chiara la voce, si capisce bene. Come ti vedi che sia uno se si intende la radio a tutto volume? Ma è la radio a tutto volume, è possibile. È l'eco. Si sente la musica sotto, cos'è l'eco Marco? Io sento musica sotto. Cioè quando lui ti dice uno, non vuol dire l'amplificazione del microfono che è interna, non puoi agire da fuori. Lui intende il volume o la ripetizione dell'eco? Intendo il volume, credo, no? Non so, io sento lui parlare la musica anche. Adesso va meglio, guarda. C'ha questo apparecchio. Cosa già? Ogni ricezione che c'ha questo apparecchio. Allora l'avevo pagato 100 euro. Vanno bene. Vanno benissimo alla grande. Emergenza, uno rimane a piedi, se sfascia la radio, attacca isso. Ma c'hai il microfono anche? Oppure lo stai tenendo in mano, portate? No, ce l'ha appoggiato sul mobile. Sono in piedi, ce l'ha appoggiato sul mobile perché non c'ha arrivato il caldo, se l'ha. Va molto bene, sì, qua alla grande. No, va bene. Adesso, guardate un po', se sono tornato come lo prima, o Claudio. Ora va bene, dai, va bene. Eccomi. Lascialo così. Ah, va bene, sì, come prima. Sì. Non dico perché per quello, se tu lo tocchi e lo sollevi è troppo forte, hai capito? Troppo forte, così va bene. Ok, va bene. E scusa, come lo prendo in mano, tocco le cose, le rotelline, capito? Sicuramente, cerca di prenderlo in una maniera dove non lo tocchi, perché sennò è troppo forte. Avanti, Natali. Ma mi faccia piacere. Ehi, guarda, questo qui è mio, c'ha una ricezione allucinante, Marco, non me lo ricordavo così. Ehi, questo qui è il mio, per meglio dire, è quello di mamma. Va bene, sì. E mio, come mi senti? Beh, così, non è molto squillante come radio, è un po' chiusa, dai. Magari ce l'hai lì da aprire. Io non ne ho toccato mai di questo, però sto parlando un po' lontano, guarda adesso. È uguale. Comunque, ciao Marco! Vabbè, Eugenio. Comunque sono tutti e due uguali, ciao anche a Sandro, buonasera. Sono tutte e due uguali le modulazioni, Marco, vanno benissimo. Forse Gianni lo tiene un po' più distante, c'è la tipica riversa della tua, però funziona bene lo stesso. Funzionano bene tutte e due. Avanti Sandro. Meno male che c'è qualcuno che ha qualche radio seria che sente. Buonasera signori. Passa. Dammi un controllo al portatore, che sto parlando con un portatile, vorrei che mi ascolti. Ma sì, col portatile. Sì, con un portatile, sì, col portatile della Intec, quello SOS, ce l'ho così. Vabbè, ma sì, sono col portatile attaccato con l'antenna esterna. Comunque buonasera a tutti. Ma lo sa, con l'antenna esterna sono. Con l'antenna esterna, con un portatile, antenna esterna. Col portatile quanto c'ha? 4, 5 watt? Sì, buono, lo so, 5 watt mi pare che fossero questi qua. Sì, 5 mi sa. Cosa vuoi che ci dica? Guarda, stai arrivando lo stesso segnale di Claudio. Cioè, tu con questo segnale veramente, io sono da parecchio che a te non ti ascolto con questo segnale. Sei 9,5 a leggeri picchi positivi. Vanno bene questi portati, vedo qui va. E a Marco come l'ascolti? Ma Marco, non lo so. Marco, vieni avanti. Ehi, Sandro, ciao Sandro, ben sentito. Questo a 3 watt, l'ho già misurato. Come mi ascolti? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anch'io ho un portatile valigetta SOS con antenna esterna, vai. Guarda, c'è un abisso, fra te e Gianni c'è un abisso. Allora Marco, Santiago 5 è stampato, non si muove per niente, la radio è buona, va bene, 5. Beh, io sono più bassino di segnale, eccetera. No, la modulazione a me interessa molto. No, la modulazione è buona, buona, ti do 5, buona, bella, presente, va bene. Questo già era anni che non lo toccavo più, questo apparecchio qua. Poi lo ripiazzi, funziona sempre bene, invece gli altri magari si rovinano. Ecco, va bene, va veramente bene quello. Col portatile già, veramente bene, tutto un capo, va bene, va bene, ho sentito lì Eugenio, ciao Eugenio, buonasera, comunque Eugenio modulando non mi piace, è troppo amplificato, è troppo casino. Ho capito, vabbè, ma sei troppo rimbombante, va bene, sei in movimento. Quando mi so segnare dovresti essere nei miei paraggi qua vicino, va bene, dai, comunque va benissimo, va bene, Spagnolo, avanti. Vabbè, sì, a poco Torres comunque, dai. Va bene, non mi dire che sia Sassari, non mi dire che sia Anghero perché non ci credo. Sono all'ingresso di Sorcio. Ehi, insomma, che legna d'aria siamo lì, dai. Gianni, adesso sono portati, come va? Ho capito, Gianni. Ho detto, adesso ho attaccato il gas, il segnale varia. No, no, no, mi sembra che sia uguale. La modulazione però cambia. Era molto più chiara, più limpida quella del portatile. Va bene, vabbè, ma deve far piacere di comodità, così si può sdraiare, invece con la sua scoma non c'è rimancato, non è niente, questa niente, ci ho messo io con la sua valigetta, e dormirà per chissà quanti anni ancora. Ma sei attaccato già? Sì, perché è stato lo Gianni, sei attaccato? Io non ho attaccato la differenza, finiscila, io non ho attaccato la differenza, cioè non ho differenza da 4 watt che può dare quel portatile, 3 watt come ha detto Sandro che ha un segnale di oltre 9 a Porto Torres, vabbè, è più vicino a te, non fa tetto con me, anche perché io sono molto molto più distante, ma comunque a prescindere. Il problema è qua, Gianni arriva con 3 watt 9 e 20, 22 e 23, attacca il Galaxy e ha lo stesso segnale. Era tutto, non ho notato nessuna variazione, diciamo, tale uno e tale l'altro. Vabbè, comunque. Dai signori, rimango in stand-by un attimino. Ehi, Assa, va bene, tutto a posto, sì. Così così, va. Va bene. Sei due minuti chiamo, facciamo le chiacchiere. Va bene, dai, buon QRL lì, ci sentiamo, alle prossimine. Avanti, Natalia, riprendi. Sì, cosa riprendo, lo capisco, dico. Ma che cosa è questo? Ma non sarà il nuovo letto, no, che ha fatto mica di figlio? No, è che quando stavo tirando il divano a freddo, ma ha fuggito. Ma la luce è arrivata, mi è venuta questa cosa e ho mollato tutto. Allora mi ha posto la medicina, allora mi è morito. Quello non troppo, Natalino, me ne è già passato. Già passato, devi farne altri però. Non so se c'hai il monte del Mugello, quello è molto efficace per questi strappi così. Capito? Ok. Va bene, avanti Marco, riprendi. Io sono più dell'idea che ci voglia una bella intramuscolo. Se pomattine, non lo so, non mi ispirano molto. Appena assorbito ma relativamente, invece è una bella, solo che come ha detto Natalino, e chi gliela fa? Dovrebbe andare a casa della sorella e farsela fare, è un casino. La faccio io, non c'è problema per quello. No, le sai fare già. Come non le so fare? È una vita che potete dire io. No, io ho chiesto, le sai fare, non ho detto, non le sai fare. Sì, sì, le so fare. Sì. Io ho il terrore degli aghi, non potrei mai farla, nemmeno su di me stesso. Poi me ne faccio quattro al giorno. Ti va. Ma quello cos'è, l'ago, l'autoiniettore? Scusi, quello, l'autoiniettore, vedi, è un aghetto più piccolo, magari... Non lo so, non l'ho mai provato, ma magari viene meglio. Diciamo che senti meno dolore, dai, con quello lì. Però va anche con le normali, dice le normali. E a mamma l'insulina gliele facevo, prima di dargli le penne gliele facevo la cosa, io con la siringa. Poi con la penna, però l'intramuscolo non le ho mai fatto. È quello, ma già mi pare. Tu devi dirmi, nella cuscia in quattro, fa la parte esterna e non in quattro. E già lo so, al centro, diviso la cuscia in quattro, via, già me l'avevo fatto anche mia zia, bisogna fare così. Quadrante superiore destro, solo che a me farebbe impressione, mamma se le fa da sole, lo sai, quando se le faceva da sole, io non potevo nemmeno guardare qua, non li sopporto gli aghi. Sì, mamma lo stesso se le faceva da sole, perché prima non c'erano queste penne, si bolliva la siringa, lui con questo tegamino, te lo ricordi la tanta... Ma non vedi la medicina di Giorgetta che dovevi risultare? Avanti Eugenio, avanti, se mi siete con calci di unite, sta parlando la stanza. Parli di insulina, solo quello di insulina non devo fare, perché la faccio tua mamma. Ma non ci vuole nulla, basta chiudere l'aria, prima, tutta l'aria si racconta c'è un po' di medicina, e poi massaggi col cotone, fai un pizzettino con il sacco e via. Mica c'è Eugenio che chiama sotto, poi ti volevo chiedere già, ma quando si fa l'intramuscolo si tira appena appena per vedere se aspiri sangue, se hai beccato un vaso sanguigno, perché se lo becchi devi cambiare punto, o sbaglio? Ma a me non è mai successo, la verità. No, io un pochino tiro, però non mi è mai successo, la verità, questa becca è tutto giusto, ma mi è successo invece con l'insulina, che qualche volta ho messo, vabbè, ma basta fare un massaggio, via, non succede nulla. Con l'insulina una volta ho uscito un po' di sangue, è vero. Ma con l'insulina non puoi tirare, puoi solo spingere, basta, non puoi fare altro. Perché la carichi, metti le unità che devi fare e poi premi. Basta, non devi fare altro. Se tu premi a vuoto per far uscire l'aria, non puoi fare. Ho compreso, dai. Eia. Mi devo abituare a questo tasto. Vendesi. La faccia di mamma. Cosa stai vendendo? Questo me lo volevo vendere. Ho anche detto al baracchino, lei da casa mi ha sentito. Ha detto, lo devi guardare, quello è mio, non lo devi vendere. Non vuole. Non ne usa ma non vuole venderlo. A che pro? Ah, quello è proprio suo il portatile. Sì, all'epoca. Cioè lei aveva il potere economico, io avevo 13 anni, 14, e lo comprava, questo l'aveva comprato lì, così come il Modi Model 3, come l'FM500S, so che, cioè, non l'ha cagato, scusate il termine, per 20 anni, adesso non voleva venderlo, ma era buttato così, non... in uno stanzino, io anni fa l'ho messo di nuovo in auge, vedo che funziona tutto, voglio farmi lo sgobbo, no? Ovvio. E vabbè, i soldi, guarda, spariscono subito, non ti conviene perderlo, perché spesso che poi spariscono in macchina, dopo non c'è più né una cosa né l'altra. Tu dici almeno un portatile lo devo tenere, soprattutto un portatile come questo. Vabbè, tanto non so quanto lo userò, però volendo basta anche alimentarlo dalla macchina e usare l'antennino su Umi, senza base magnetica, anche così si può usare. E vabbè, non ci avrà la stessa potenza. Se tu usi l'antennino suo sopra la macchina con la base magnetica, io mi ricordo che una volta c'era una trattamona usato quello e mi sentivano la sassa. Non lo so, da Pratavona non ho provato, però da Porto Torres non mi sentivano, lo sai, da Porto Torres città, e quindi niente da fare. Poi ho anche l'antennino in gomma della Intec, cioè ha la stessa base magnetica del Maxon, però c'è un antennino in gomma da 20 cm tipo Digos, e lo puoi sia avvitare sul portatile sia lasciare sulla sua base magnetica, che è uguale a quella del Maxon. Io lo chiamo Maxon. Come? Io l'ho chiamato Maxon. Sì, infatti, questo si chiama Maxcom come modello, ma lo fa la Maxon. Cioè la ditta è la Maxon, e poi questo è il Maxcom, Maxcom. Ah, ecco, allora pensavo che sbagliassi io dicendo. No, allora è Maxcom. E quello là, io me lo ricordo bene, invece dite che è stretto. È stretto, ma fa le stesse cose. Comunque poco fa non era come ci preferì niente. Capito, era acceso, non me ne E cos'era acceso già? Il lineare era acceso, non me ne accorgo che era acceso. Comunque l'ho misurato, è 3 watt, provato dall'1 al 40, 23 watt, da non di più, con 13,8 volt circa. E io non ci ho pensato a far misurare, ce l'avevo attaccata lì la cosa, non ci ho pensato a guardare. E vabbè, comunque sono quelli che vanno bene, ma che non lo dare perché poi non lo trovi più di quello. Io mi ricordo che Cinevario stava proprio vendendo tutto perché si stava imbarazzando degli apparati, non ne voleva più prendere, voleva avere solo stereo o roba del genere. E io gli avevo chiesto se me lo prendeva, quello lui mi ha detto sì, 100 euro, guarda, mi costava il dubbio, mi ha detto. E vabbè, me lo dia, che me lo preso. Sono qua. No, 100.000 lire, grazie. Ripeti, dai. Quanto sbagaglio Maria, porca puttana. Ma insomma. Ma è una maniera allucinante. Come lo trova anche io, li prende, ma anche attenuato un po', Ho attenuato, lo sento lo stesso. Tantissimi microfoni, un bacio, minciati. E si dice? E che si dice? Qua siamo. E infatti già 100.000 lire costava quella forma. Perché l'avevo preso anch'io, però io non c'avevo quello della Intel, c'era quello della Midland, capito? E costava più o meno quella cifra lì, 95. 100.000 lire, dai. Ma cos'è il genere? Sì, 100.000 lire l'avevo pagata. Ma ecco, costava anche il dubbio, glielo sto dando perché mi sto eliminando la roba CD che non mi interessa più, ho detto perché? Non c'è poco, cosa, poca vendita di quella roba lì, preferisco mettermi i piatti, infatti mi avevo preso il piatto solo e l'avevo preso da lui, l'avevo pagato dopo molto tempo, cosa, 350 euro. Quel piatto soli che c'ho io, ma è un bel bello, c'è la frizione, c'è tutto qua, è bello un bel piatto. Io l'avevo comprato la GBC però, allora, quando era in voga, Midland, non mi ricordo il modello, adesso perché sono passati tanti anni, capito? Va bene. Bello carriere. Ma claro, adesso devi fare una password di un'email. Sì, Ma voi prego, ne avete o sono io che ci ho fatto i piedi, cazzo? Sono comunque voi quelli congelati. C'è freddo, non so se greccare. Non so, forse quello dell'altro giorno, un momentino fresco. Io prima di uscire, avevo molto freddo, cioè ero in pigiama ma ero sentivo il fresco mi. Ehi, ci sono un dicendo, volevo andare in moto a lavorare, questo è sceso con un ho sentito che c'era questo che dicevo fresco, tutto freddo, e mi dava un caso freddo. E allora ho preso la macchina, e poi già che c'era ci ho buttato anche la molletta perché il moto non fa la portata, lo sa. Ci ho buttato tutto e via. Adesso fanno quelle giornate e comincio a usarla perché io ho fatto tagliata, gli ho fatto la revisione e gli ho fatto la simulazione. Ma un volo ce l'avevo già, adesso è tutto a posto. Non è lo per io la mattina. Assolutamente, io mi sono libero, sto prendendo verso le 10 e mezza, le 11 la mattina, adesso la mattina sono libero. Forse è troppo freddo la mattina, perlomeno, io esco al buio, io esco alle 6, 10, quindi c'è un po' di freddo, no? E già c'è il tempo c'è la moto, ma tutto sempre, non mi ha assicurato tutto l'anno sempre. Quindi, le giornate fredde, però non la mattina, capite? La prendo, so, fare qualche commissione così, però non ci vado più a lavorare la mattina in moto, io ci andavo proprio luglio, agosto, sono giornate. Se c'è caldo già la mattina e ti piace usare la moto, ma adesso è a prendere un malato. Se non mi senti gradi stamattina usa la moto. Stamattina c'era freddo, ma due giorni fa, no ieri, avanti ieri c'era caldo, perché l'ho presa io e c'erano 15 gradi stamattina verso le 7 e mezza, 15 gradi, e si stava bene, con il giubbotto non sentivi nessun tipo di freddo. Natali, ti devi sdraiare. Con la scusa si può fare i massaggi da concetta. Se no, è ugani, è una linghita. Capa, capa. È un genio, va. Non so, io mi sono tornato un attimo e stavo preparando il cane che ne ho approfittato di questa mia figlia, ma mi hai fregato, no, non ci vedo mai questo. E arrivi da dire, vai a portare il cane perché io non ho pure. Sono stato morto anch'io già. Anch'io ho sempre dolori nella schiena, ma io soffro molto di artrosi, di artrite, lombosciatalgia, tutti i singoli viraggi, ormai mi ritengo. Stavamo facendo dei lavori particolari, ho dato una mano, prendere pesi, spostamenti, balle poi, vale, quindi è così. E vabbè, vabbè, mi è uscito quello che ti ho detto poco fa. Che cosa? La pensione. Sì, ti ho sentito, ti stavo ascoltando, però poi sono andato a rispondere al telefono. Sì, ti ho sentito, ma io ho fatto la domanda ancora, ho fatto le visite, bisogna aspettare, no, che ti diano una risposta. Però non pensione, non lavori, no, mi ha fatto la già interprete, aveva fatto, appunto aveva detto anche lui, e poi ho avuto un incidente, capito, uno scalabuso del comune, l'aveva buttato giù col motorino dietro le sacche, l'avevano anche operato dietro il collo, capito, facciamo un validità. Quindi prende la pensione, il diabete, questa è invalidità, quindi la pensione è invalidità, però sta ancora lavorando. Lavora, compensa, c'è la pensione più lo stipendio, e c'è una potrebbe più di me. E questa pensione li dura anche quando prenderà di vecchiaia, di anzianità. Certo, quando va in pensione contributiva, le danno ancora, ma certo, quella lì ci davano la marcia, invece l'invalidità, abbiamo riscontrato l'invalidità, c'è il diabete per questo incidente. Quindi sto lavorando e prende intorno ai 480 euro di pensione di vita, e più 1.700 mi pare di stipendio. E già va bene allora. Cosa sto dicendo, fare più di me. Io arrivo normalmente tra 1.700 e 1.800, ma anche con i rientri, con tutto il balavanzo non ci arrivo. Quindi fate più di me, però per carità non 10 minuti seduto nel letto, perché c'erano questi forti capogiri allucinanti. Per cui vabbè, il diabete non sta andando male, mi fratello, già da qualche anno che è sempre molto bassa, sempre, però c'ha questi dolori atroci al collo, alle gambe, così. E poi il problema del diabete già lo sai meglio di me. Cazzo, nei 2 anni sta cambiando occhiali, non c'è niente da fare. No, io grazie a Dio per la visita, ho fatto una visita qua 2 settimane fa. Ho fatto la visita, non ho riscontrato nulla, la visita è a posto, eccetera, eccetera. Occhiali non è sopportata. Ma da lontano c'ho 10 dieci. E dal vicino che non vedo bene se lascio gli occhiali. Quello da vicino ce li ho anch'io già, però ho dovuto anche alettare cose, però lui con diabete di anno in anno sta peggiorando sempre la vista, sta peggiorando sempre, io ce li ho da vicino perché non vedo le letture, anche per scrivere mi dà fastidio, da lontano vedo la mosca sull'albero, ma da vicino ho fatto una gemaglia e quindi uso gli occhiali per leggere, per scrivere, basta, ce l'ho sempre appresso. Anche lo smitter io della radio lo vedo mezzo ombroso, vedo l'ago che si muove, quindi ti do il segnale così orientativo, anche andatelo giusto, mi devo mettere gli occhiali per vedere l'ago fermo, capito? Anche io l'ago lo vedo, ma non vedo dove va. Non capisco su che numero si è fermato se non c'è gli occhiali. Sì, sono anche io così. Vabbè, dopo 40 anni mi ha detto l'oculista che è normale, addirittura dice che usa il computer anche prima dei 40 anni. È una cosa normale per tutti, il fatto di non vedere dopo con l'età da vicino. Vabbè, c'era mia nonna che era un caso patologico, che a 96 anni leggeva il giornale senza occhiali, è una cosa allucinante, però così purtroppo ci sono delle eccezioni. Non era così, no, a 92 anni leggeva lo stesso giornale senza occhiali. Nulla, no, io miopia non ne ho perché ho fatto la vista al torpino, non sono io, sono il permetto, capito? Però non è dovuto anche all'età, insomma, e quindi niente, finisce, poi vedremo più avanti un occhiale che le consenta di tenerlo fisso, ma io fisso non un occhiale, e il momento non ne ho, ce l'ho sempre appresso, ce ne ho un paio nel giubbotto di lavoro, un paio ce l'ho qua a casa, ma sono tutti e due per leggere, basta da vicino solo, capito, l'avevo preso da Gino, da Lucariello, e basta. Bene, Meda, e la Carpiniana la finita di mangiare? Beh, in teoria sì, ma la serata è lunga. Così, in mangia di un bonino, in mangia di un yogurt, e poi devo mettere anche un bombo. Sì, ma mandagliela però, mandagliela. Non manca un rapino, dicevo. Se la mangia, se no si la giuccia. Ehi, lo volevo portare dall'asino della crucca, almeno se ne faceva dare una passata. Allora, chi ve l'hai in bianco? Gli asinelli della Sinara, mi. Guarda, ci devo andare a metà mese alla Sinara. Dobbiamo fare un sopralluogo per, non so se l'avete sentito da TV, che finalmente si sono decisi a dare la linea all'acqua potabile da Trentino, quindi dobbiamo andare a fare un sopralluogo. Ci vado la prossima settimana e ce n'è uno, se è ancora vivo, che io le portavo anche da mangiare, guarda. Le portavo anche da mangiare. Guarda, la settimana qui da Carbonati, tutti vedono, mi lasciava le mele quelle tutte perché praticamente non si vendono, lattuga, carote, di tutto, non avevo un accetto di quelli di plastica che aveva portato, ma tanto lui aveva, infatti di quanto mi voleva bene diventava 5 zampe ogni volta che mi vedeva. Attenzione che si gira, Madre di Dio, su 1 metro non ne aveva, a terra le toccava, Quindi si era innamorato di te, perché gli portavi le mele. E allora, si era innamorato di me, ma era giusto che... Quindi se c'è quello, quindi ti faccio la foto dal vivo e te la mando in diretta su WhatsApp, così ti consoli. Madre di Dio, guarda, Io sono sempre col portatile. Ho detto, io lo vendo. No, non voglio, Quello l'ho comprato io. Ha detto, ma è 20 anni che non l'hai più cercato. Dice, non sapevo più di averlo. Ma lo potevo vendere all'epoca, no? Ma è una cosa effettiva, lascia stare. Sono già realizzato. Guarda 50 euro, ma lascia stare. Io ne ho uno che mi hanno regalato di portatile. La buon'anima di Carlo Titano, no? Lo voleva uno. È uno portatile monomanda UHF della Icon, e non lo farò mai, perché un regalo me l'ha fatto uno Carlo prima di morire, me lo tengo, capite? E ne avevamo uno io e uno lo mai mai Gianpaolo, quindi sicuramente c'era anche Gianpaolo specchiato. Sì, ahia. Riprendi Gianni. Sì, vabbè. No, io lo tengo, tanto non mi chiede da mangiare, che cavolo. Dovrei essere proprio sull'attico per vedere, anche perché infatti il plato non è che è realizzato tanto. 50 euro le vedo io, me lo dai. A mamma gli dai, lei non lo vuole vendere. Ma sai cos'è? Tanto non si usa mai questo. Quando è che si usa? L'ho usato oggi tanto per prova, così. L'ho fatto l'altra volta, ma poi si mette da parte. Non è mai come l'antenna da macchina vera e propria, dai. Ma... Però, vabbè, tutti hanno detto che non li trovi più così. Ormai li fanno come li fanno i portatili. Non li trovi più così, ecco perché dicono che è meglio tenerselo. Vabbè dai, tanto mio non lo posso vendere, purtroppo, se no me lo sarei fatto in soldi, poi magari me ne sarei pentito. Ma infatti, io guarda, se qualcosa prendevo i tutti i ricevitori, tutte le cose, tanto non è più di rattetto. Io ero il primo cimignano, ogni volta che viene c'è roba, prima ma ci vediamo che ci girano le balle. Vendo tutto, mi vendo tutto, ma tutto barome, tutto vuol dire tutto, capito? VHF, qui tengo qui 440, linea completa, capito? E basta, tu, finito. Ciao Gianni, guarda, ma io Gianni va a fare che cosa? Lui, aspetta questa estate, tanto devo per forza farlo, iniziare a togliere tutto lassù, quindi... Come arrivo al tempo bello, organizzo una vertacca con gente forte, mi rampo tutta a terra, conservo tutto e poi si vedrà se mi voglio ripiazzare tutto dall'altra parte, lo faccio, se no tengo tutto conservato, tanto già alla fine cosa ne fai? Cosa ne fai? Assolutamente, ti do pienamente ragione. Oh, mi tengo questo, linea completa a 440, e ho detto che vuoi tutto. Tutto spento già, per carità. Ma dico, stiamo trasmettendo digitale adesso, prima sentivi un po' di roba, ma adesso trasmettendo digitale anche la di amatori, quindi va a finire che qui alla fine non ascolterete nessuno. Cosa vi tiene a fare gli apparecchi? Beh, se io ho fatto attività amatoriale sono anche in digitale, non è un problema. Ma tutto il resto che non interessa più, capito? Mi ho chiesto il chiamato alla cosa, adesso mi mandano anche verso il 440, così l'amplificatore è sempre spento, verso il 2100 lo collego qua. Quindi mantenitevi in Switzer. Ma sono le 8 meno un quarto. E io, 8 meno un quarto, mia figlia è già salita col cane. Io devo scendere adesso, io. Io sono sceso alle 8:30, ma si stava bene, lo sai, alle 8:30 non c'era freddo, ho scelto le robe a casa e via, e poi via di mangiare. No, non c'era molto freddo, dai. Non c'era freddo, e già non stavi parlando con me, che ti ha detto, ma non vai già sulle 8:30, lo solito adesso, sotto la lettorina, vieni non lo può portare, vieni, e pure contento lui quando rientra, benvenuto, e se stava facendo essere ceti a svitila e mucumiamo a casa. E sicuramente abbiamo voglia di fare il viso. Infatti ho fatto in fretta, mi sicuramente in fretta e giù barato, se no mi sono imparato. E questo è importante. Non c'è un uomo allucinante, non lo vedi? Musica. E dove? Non ho sentito. Sì, sì, la sento, Santiago 5. No, qua è di più, Santiago 9. Adesso è 7. Ehi, macchina. Ma come ce l'hai? Chi è che ha detto come ce l'hai? Dove è in macchina, eh? No, forse c'è Benito sotto. Non è Benito, Benito non sta modulando. Cosa è? Lui volevo dire. Quindi digli che c'è una portante già. C'è una portante. Prova a modulare, ma non so se ti ascoltiamo perché c'è una portante qua. Secondo me qualcuno che si è lasciato il microfono attaccato. Vabbè, moduliamo lo stesso. Io già sentivo un po' la portante. Dai, prendi o Marco. Sì, ci sta per correre. Sì, ma infatti, non datele adito stendito. Ogni tanto, il raptus viene qualcuno. Ehi, come il raptus, come il raptus mi ce la fa, il disegnare cosa fai? L'abbraccio, c'è una capatata. Qua sì, Eugene, qua non passa. E beh, Brentella, c'è un portante con la musica, ti arriva a te. Non sento niente. È proprio, volevo la chiave in radio, è proprio una Brentella. Che... Oh, la faccio la portante. Ciao, io. Non arriva qua, che cos'è? Attenzione, Sassari. Avanti, Sassari. Luca, buonasera, Fortunato, saluti alla ruota, ho sentito adesso a Claudio, e l'80 poco fa ho sentito anche a Gianni, se non sbaglio. Ciao Fortunato, buonasera anche a te, salutoni. Sì, c'è Gianni, Marco, Claudio, una portante, e se non erro, Eugenio è un portatore, avanti fra. Ciao Lucky, un bacione grande. No, no, cosa importante, sentivo una musichetta a Santiago 8. Quindi ci compriva il QRM, ciao, va bene. Ciao Fortunato, buonasera, ben sentito. Ti mando avanti Gianni, vai già. Ciao Fortunato, dai, ti rientro. Ciao Gianni, ti rientro. E lo famo lì in Africa. E come sì? Adesso sono qua, c'è comparazione, vivi usini. Ah, ti ascolto molto bene, dai. Già, arrivi benissimo qua. Santiago 9, 20, sì. Attenzione, ecco. Ma ci arrivo lì a Usine, è registrato il break, ci arrivo Fortunato, sì. E se ti dico di no, ci credi? E cosa va a fare se non mi fino e sono lì e ti sei arrivato, sai? Farebbe di capire. Avanti il break, questo è il tuo, diciamo, bimbo, avanti. Cappa, buonasera a tutti, qua incolonnato in Viale Italia, direzione a casa. Ui, bel bravo, buonasera anche a te, dai. Io sono qua di cena. Vabbè, avanti, rilascio Claudio, avanti là. Ehi, c'è Marco, ciao Pierfra, cos'è? E te c'è Babbo 2, sei entrato? No, era in ascolto, Cla. Poi ho sentito a Babbo, ho detto, dai, entra, saluto. Cappa, cappa. Mia, tuo figliolo mio. Ciao migliori, beh, come stai? E io va tutto bene, ora paga la colazione, vi? Dai, io vi saluto, buon fine settimana a tutti. Che costui? Ciao Pierfra, un abbraccio. Ah, l'importante è salutare a Babbo, è che lui ci tiene a queste cose, capito? Figlio mio, se sei 40 anni che non lo chiami figlio mio, allora chiamate figlio mio. Oh, guarda che ce l'hai vicino di casa, mi hai sentito? Ehi, già l'ho sentito, si chiama Loretto. Daniele. Chi è oggi, Daniele? Chiedo un attimo di bianco. Ehi, ciao Daniele, buonasera, ben sentito anche a te, dai. Che c'è Fortunato, adesso è tutto composto perché sta uscendo bene, ti compriva, capito? Sto uscendo da Porta Riccale, buona continuazione in questo. Ciao Daniele. Grazie. Ti sento, mi va a vedere. Ragazzi. Vabbè, date il passo. macchino mio, prima non saliva lo smitter qua. Scusate, c'era l'antenna bagnata, boh. E là no, questo sale di più. Perciò stanno, me ne accorgo dallo smitter, quando vado a modulare mi dà, sicuramente meno 4, boh. 9.25 scelgo, carino, tuo segnale è pieno pieno. E infatti hai detto bene, mi sto aspettando il cavetto per le 4.40. Eppure attacchiamo l'SL2187 giurate, così non ho fatto la moglie le piccole con lo smiglia. Cambio, attenzione, Claudio Spardiero, cambio. Non volevi salutare Fortunato tu, Eugenio, mica c'è Fortunato. Ma dov'è? Io non lo sento. Mischia, io non lo sento. Attenzione, Fortunato. Avanti, Eugenio, una buonasera. Non lo vuoi, guarda chi non imbratti. Che è 9.10 qua, Fortunato, non lo senti. Ma, contrattore. Non so se è contrattore o colorato, boh. Colorato, ragazzi. Sei graziato, ragazzi. Ah, dai, Eugenio, ti bacia Fortunato, un bisciugato di catamarano che fa. Ma non ti vergogni, che... Chi sta salutando? Ti sta chiamando e non lo senti, boh. Ma lo sento, non lo sento. Se non l'ha risposto. Ma lui ti sente a te, evidentemente siete in zona diversa, dove sei, Lucky? Io sono qua a Predaneta, vicino a Francoenna. E tu dove sei, oh, genio? Centro commerciale, adesso, a Catamora, capito? Ah, Pratamora sei. Avete parlato in due, cos'è detto qua? Vedaniere, sempre un difetto, che ho detto che sia il centro commerciale di Pratamora, lui faceva Predanieta, per quello non te non lo sei. Ah, lo vedi? Lo vedi che c'è un perché? È già un vedi che sta arrivando forte. Ma chi, a me o a Daniele? Se sei un centro commerciale sei a Sussu. Ho detto, per quale ti sta arrivando forte Fortunato, a te, sta arrivando forte, ti sta arrivando forte. Perché Fortunato è alto, grosso, ma soprattutto è molto peloso. Claudio, quando ti vedo ti tiro il collo. Ma non te ne hai già tipi? Sì, ma ho tagliato 2 mesi fa all'ospedale, siccome ho fatto un'operazione lì a Policlinico. Mi hanno rasato, guarda, tutto, tutto. Ma di brutta mia moglie l'ha già detto, vieni ma ci ti faccio fare una cosa. E lì, ah, che brutta! E già era bella prima. Quindi era contenta che c'è infermiera che ti ha rasato, che ci ha fatto la parrucca. Lui non ci crederai, il primo giorno è stato che ho visto la Fortunato, mi sono spaventato, ma eravamo un po' più giovani, una cosa allucinante, una cosa allucinante, Gesù, l'ubero di china l'aveva tutto arricciato, mi ha detto Maria, che l'avevano fatto in bocconi. Ah, Fortunato, non abitavo vicino a me, se ne è andato ancora, c'erano ancora i baffi. Adesso non so se ci dà sempre, boh. No, negativo lui, li ho tagliati. Ma ah, ce n'è più fortuna, non ho capito. Vabbè, comunque a posto tuo ce l'ho io, là, c'è una roba un po' lunghetta. La sto tenendo, ma guarda, che tra un po' la butto giù perché è un casino, la devi curare, lavora ogni giorno. Mamma, non ho dubbio. Però te si secca, Luia. Positivo. Sai che vi saluto, che sta stando il capannone. E Luca, saluta mamma da parte nostra. E Claudio, ci sentiamo, dai, beato da parte mia. Ciao, Fortunato, un abbraccio grande, dai, saluto anche Pierfranco, se in ascolto, fammi sentire ogni tanto, ci fa piacere, ciao. Ciao, Fortunato, grazie, contraccambia, buon rientro, buon tutto, saluti in famiglia, ciao, alla prossima. Luca, ho trovato di occhio dove qua, dove sta aspettando la pantera, se non mi cudi. Poi mi si incazza, è un casino, a calmarla è un casino, ci vuole il cric, dai, te lo vado dopo il cric, ci vuole, boh, non lo so, una pala o qualcosa, dai, alla prossima, ciao. Ciao Lucarie, ma perché tu barba c'hai? Come te la mia, è ancora più lunga, sempre più lunga diventa. Ecco, io sono la barba lunga, Io non come la mia, no? Io ce l'ho già da gennaio ce l'ho, da gennaio, ma non la faccio più, la sistema ogni tanto, servito, però la lascio stare, ma mi piace, me la lascio. No, non ce l'ho più lunga io, fidati, la mia è molto più lunga, non so se la tua è pettinata, non lo so, o se l'hai accorciata. Beh, adesso io non riesco a farmi la botta laggiù, adesso è molto più va bene. Marco Congo, ci sei? Sì, sono collassato qua. La biocco, mi. Forse dovrei mangiare qualcosa, che sono deperito. No, il problema è che quando mangi a te ti viene l'abbacchio, ho capito? È quando mangi che ti viene l'abbacchio. Quando non mangi invece c'è quello pimpante che ha ragione Natalino, deve andare dalla grucca. Eia, babba mia. Mi sta pure salendo tutto, adesso vomito sul portatile. Prendi un dice, una magnesia. No, un amaro casomai, così digerisco. Mi l'ho comprato oggi. Un amaro, ma che amaro ti fai? Un amaro per digerire più che bene bene. Ci vuole un Fernet Branca, un Unicum, di Biglioca Mazzutti o un Cinar, vedi un Cinar. No, Montenegro. Montenegro amaro. E come lo definisci tu? Digestivo è cosa amaro. Amaro per digerire ci vuole Fernet Branca, Unicum. Un vaccinare con un pochino di acqua frizzante, quelli fanno digerire. No, per carità, la Fernette Branca fa schifo ai cani, è veleno puro. Ma almeno fai digerisci. Va. Un rutto ci vuole, un bel rutto purificatore. Hai visto la barbetta di Luca? Ma quella barba è... Vai, è tutta tracciata che ha, la mia è tutta unica, già lunga, la tua è tracciata, sì. Pettinata, anche la mia è pettinata, ma è tracciata, però io no, io ce l'ho proprio. Così non ci riesco a farla. Dovrei stare ogni giorno al barbiere. La mia è un bel tipo talebano, capito? Voglio essere un talebano. Capito, la mia è pettinata, se la sollevo è lunga, però vuole curata, balsamo, un casino. Basta domani, c'è la notte di diventare un dura. La notte deve diventare dura, se no non sarebbe un disastro. A me diventa dura, anche un po'. La barba, sto parlando della barba, non essere scurrile, Casarella, era bravo, la barba, sempre dura deve essere la barba. No, ma la mia non è tracciata, non hai visto, la mia è un bel... è solo pulita, insomma, però sotto, gli angoli, eccetera, eccetera. Ma io vado con talebano, tu a... Cazzo, non pare che sia un marocchino che vendi a... Sì, stiamo parlando di barba, poi se invece di essere barba è altra cosa, no, ma anch'io tutte le mattine prima del lavoro la pettino, la sciampo, con lo shampoo, basta, non dormi da morbida, capito? La cosa che mi dà fastidio, lui la sai qual è, ho detto anche a te in media, a Gigi. Poi la bocca, ti sento un po' in bocca, e i baffi sono giusti, proprio all'altezza delle labbra. Così non so se mi sarebbe bene, io infatti l'ho fatta come ce l'ho sempre avuta, ecco, tracciata sopra. No, provalo, però sai come se vuol tempo, lo vai a tracciarla, poi tagli un pezzo, poi sbagli la parte lunga, la parte più corta, allora devi farlo uguale, è un casino, curarla è un casino. No, guai, io ho detto Gigi come fare, mi ci ho comprato una lametta monolama, capito? La faccio spesso, un giorno sì, un giorno no, le tolgo, la segno bene, sotto il collo è sempre pulito tutti i giorni. E poi tutti i sabati, adesso domani mattina, allora la Gigi me la faccio segnare da lui, capito? Se la curi va bene, ma si dovrà riuscire a bucarci una mano, non è bella. Genio, cosa stavi dicendo? Anche tu c'hai la barba dura. Genio. Ah, io Daniele, lampade e tutto, un piccolo bimbo. Daniele. Infatti faccio così, domani mattina vado, faccio mettere la misura normale dal barbiere e gliela faccio accorciare un pochino, capito? Così cresce ancora, se no non va bene. Se no divento frate priore l'intenditore. vai, barbuti, vai. E tu mi sono il mio barbiere? Il mio barbiere ce l'ha lunga, un po' a punta tipo il frate, e ce l'ha fatta in celeste, a trovare un buffo. E ve l'avevi detto, allucinante. No, io, siccome la mia è rasa, è brutta, no? Io mi rado sempre col rasoio elettrico, oggi me la sono fatta su liscio, poi ogni tanto mi metto l'acqua velva dopo la rasatura, acqua velva, è un bel profumo, No, a me piace, solo che non ne avevo mai la voglia di lasciarla, poi è capitato questo problema alla gola, quindi ero gonfio sotto, facevo a farla. Allora mi ha confittato la sciarpa 2-3 settimane, ho visto che era tutta bianca, ma il problema adesso me la lascio, così sembro figlio della terra caricambone. Sì, no, io non potrei, no, non la tollero con la barba, certi giorni cresce un po', ma la mia cresce allo stato brado, poi non viene nemmeno fitta, se la volessi fitta non viene fitta, la mia è molto rada, capito, come i bulbi periferi, non vorrebbe nemmeno la barba bella compatta, capito, quindi tanto vale rasare a zero, fra poco me la faccio anche sotto la barba. Sì, quello è per il tipo molto interessante. Quindi la tua barba tra un pelo e l'altro ci vuole il tram. Eia, devo pigliare il tram tra un pelo e l'altro, capito, non è di quelle fitte, ma meglio così, dai. L'ho fatta oggi, bello liscio, vabbè. Cioè, a me viene brutta, tipo Dottor House, che prende anche il collo, non è bella, è una schifezza. Quando me lascio crescere troppo sembra un naufrago, un barbo tossico sembra anzi. No, io sono un po' di maschio, sto per i corti, la barba non è in corda, va bene così. Però me la faccio andare, non devo andare a conquistare a nessuno. E tu come senti, qua si è messo in moto uomini e donne, tutto in volume. Ah, perché non me la baci quel televisore, non rispari mal di fidare. Non lo sapevo. Non l'ho vista, ecco perché mi vorrei vedere il telegiornale, che ormai è tardi. Vabbè, pazienza. Ma lo guardo sul computer. Un altro bassaio, io li avrei messi tutti al muro questi arabi, questi musulmani. No, tutti bravi, tutti bravi. In Italia si mangia molto bene, te lo do io. Ma non sono tutti così. Capito? Ci sono quelli, diciamo, estremisti, e ci sono quelli che non ne frega niente. Il problema è che l'estremista lo scopri sempre quando è troppo tardi, quindi tanto vale farli fuori tutti. Sì, sì, è comunque diventato un casino, non ti puoi fidare più di andare da nessuna parte, guarda. Sì, mi ascolti bene, Eugenio? Finalmente sì, ma so se non riuscivo a levarti fuori, Sono solo 3 watt questi, 3 watt. Sto usando un portatile con antenna esterna. Volete guardarmi, è finita. Sì, lo sto provando perché era fermo. Questo è un portatile del 1986 e funziona sempre perfettamente, miracolo. Ah, funziona, funziona. C'è una bella modulazione, mi marco, davvero, mi fai quello di Gianni. Cosa volevo dire? Non me lo ricordo. Te lo ricordi perché sei diventato ricoglionito? Vediamo se Natalino si è sdraiato. Natalì, si è sdraiato? In verticale o in orizzontale, sì? No, adesso sono appoggiato. Sono appoggiato. Quindi sei in verticale seduto? Ero sdraiato poco fa, me l'è saltato il cane addosso e mi ha schiacciato i gioielli di famiglia. Qua, vedo qui su voi. Non basta di loro che sai chi fai, quello che la sta druganida, non c'è. Saluti, fatta e mi. A me la fai, io viene, e allora, così la lasci in faccia, capito quello bello? Così la lasci in faccia tua moglie, visto che il cane ti ha crassato. Capito, buon povere, Hai capito di lasciare in pace con la signora, Come parla con uno? Non è che c'hai un'assemblea per il computer mio che mi si è rovinata, sono senza audio. Sì, allora io uso una Creative, però la uso, ti ricordi quel problema a Partac, no? La uso lì, quella c'ha gli effetti, quella l'ho pagata, allora tu cosa che quanti anni ha la pennina? L'ho pagata 29 euro mi sa. Quale pennina? Sound Blaster X5 GoPro. E allora ti prendo il ed è anche potente come cosa. Ma che la usavo su palta, che ti ricordi che cantavo anche. Perché mi serviva e ce l'ho attaccata alla scheda madre, da quella che sto usando, mi si è rovinata. Ah, è PCI l'attacco? No, se ne trovo una PCI, mi va meglio. È attaccata alla scheda madre, quella originale. Non so se ce n'è una lì, fate il controllo. Ah, poi servirà una PCI, che la cui modulente e via. Sempre però questo PC non è mio, è un PC che ho in riparazione, aspetta il controllo. Oh Claudio, a Stoccolma è capitato. Ma come mai ce l'hanno tanto con quei paesi e all'Italia non li fanno niente? Vabbè, PCI e PC Pip, io vi saluto, che pronto alla cena signori. Dai, ciao Luca, ciao Marco, Natalino, Daniele, Eugenio, poi chi c'è? Se c'è Sandro in ascolto, Massimiliano, insomma, tutta la banda del Gobbo, ritenetevi tutti salutati, ci sentiamo domani, lascio e chiudo. Aspetta! Oh, ciao Egi, perché a Stoccolma? Come mai colpiscono centro nord Europa e a noi non ci fanno nulla? Ciao domani! Mi dillo a Eugenio perché. Eugenio, senti cosa ti sta dicendo Marco. Dimmi Marco! No, io l'ho chiesto a Claudio. Ho detto, stanno colpendo questi terroristi centro nord Europa. Ma a noi non ci toccano, come mai? Perché siamo arabi anche noi. Perché sono musulmani italiani quelli che fanno gli attentati, capito? Pure. sono musulmani italiani. Sono musulmani italiani. Dice, c'è la Tari, c'è, c'è. Ah, c'è? E certo che c'è, ma quel vicino non è mio. E allora non ti serve? Ma non ti serve, boh. Lasciate che controllo su internet se c'è una cosa malata, aspetta. Vedi, la Tari qua c'è, però è usata. Audio interna PCI 5.1, sì, canali, computer, costa 16,50 euro, ti viene. Fammela arrivare. No, guarda, se vuoi ti do questa qua, la provi e poi la ordino io, te la do, la provi, ma dovrebbe funzionare perché il PC sta aspettando un pezzo. Che ci ho comprato questa data la darei a casa, che non cambia un pezzo con la scheda madre. C'era anche, con la scheda lì c'è anche, la scheda video, oltre a non avere la scheda PCI, c'è la scheda audio, anche la scheda video, quella, diciamo, il connettore femmina, chiamiamolo così, ingresso, là. Giallo però è, la tecco più grande e ti fa anche la scheda video, vaffanculo. Ehi, la scheda video ce l'hai già, c'è paramba. Ma vuoi non puoi attaccare anche il monitor lì, capito? Ehi, non lo so, se vuoi io domani passo, la porto. E poi niente, la, come si dice, la proviamo, se va bene poi la riordino. Ehi, così ti porti via quella cosa che c'ho io tua. Che domani passo, dai. Ok, grazie. Va bene, passo e passo e chiudo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Buona notte. La lascio acceso qua, dai. Oh, mi allontano. Ora c'è qualcosa da mangiare. Marco, sei ancora? Tutti andati. Bene.